L'evento appunto sì, parlerà principalmente di musica, l'impatto fondamentalmente tocca vari aspetti, in primis quello creativo sicuramente, perché in realtà è un argomento che ci portiamo dietro da un po' quando è nato il supporto fonografico, ecco, perché comunque la musica e la sua riproducibilità è strettamente collegata un po' alla tecnologia, quando è stato col vinile, con la cassetta, poi con gli MP3, quindi la compressione lossless, e adesso appunto con lo streaming. Lo streaming aggiunge un livello, diciamo, di complessità maggiore, perché adesso è tutto molto collegato al marketing, alla dinamica di playlist, e in qualche modo diciamo che le piattaforme di streaming, ma questo è un concetto insomma che già si sapeva, hanno un po' sostituito, tra virgolette, comunque sono diventati un filtro in più tra quello che è la musica, la scrittura dell'artista, del musicista, è l'ascolto finale, perché adesso non abbiamo più solo la casa discografica, insomma l'etichetta, si aggiunge la piattaforma di streaming, che in qualche modo filtra tramite delle regole che sono dettate un po', come vale un po' in generale, questo non solo per la musica ma un po' per tutti i prodotti, insomma le regole del marketing, il fatto che siamo molto collegati alla soddisfazione finale dell'utente, ok? Tutta la sfera digitale vive sotto questa regola, appunto, per cui rispetto a quello che piace agli utenti i contenuti, diciamo, vengono generati su quella direzione lì. Quali sono poi gli effetti che si producono tra l'interazione appunto delle piattaforme e magari gli artisti emergenti o invece gli artisti che sono già in un qualche modo affermati all'interno del panorama musicale? Anche qui si sono un po' rivoluzionate le posizioni e le prospettive. Sicuramente, come dire, c'è un po' più di margine, un po' più di possibilità per un emergente, del resto insomma un po' tutto internet, e questo forse è anche un po' il lato positivo, è stato strutturato in maniera tale che tutti potessero fare tutto, e quindi in qualche modo comunque gli emergenti hanno delle possibilità in più sicuramente di un emergente di anche solo 10 anni fa, perché in qualche modo può raggiungere potenzialmente una visibilità. Poi ovviamente tra il dire e il fare ci sono mille altre sfaccettature che poi un po' sono sempre legate fondamentalmente alle possibilità anche economiche che ognuno ha di investimento, e quindi insomma chi c'è anche dietro agli artisti, alla promozione e agli spazi che si possono in qualche modo ottenere maggiormente. Sicuramente, diciamo, se vogliamo guardare da un punto di vista artistico, non c'è alcuna differenza, nel senso, tra un artista emergente e un artista un po' più affermato, semplicemente perché tendenzialmente le regole ormai sono abbastanza chiare a livello compositivo, di scrittura, e tutti cercano di andare un po' in quella direzione. Quindi la difficoltà maggiore che adesso abbiamo fondamentalmente è nel trovare qualcosa che sia più originale, più particolare rispetto a una volta dove, come, si azzardava di più, perché anche perché c'erano meno regole, famosi, e c'era una netta distinzione tra quello che era il mainstream e quello che era la scena indipendente o scena comunque emergente. Immagino che questo abbia anche un impatto su magari i generi musicali o la tipologia di cantanti che viene preferita. Questo credo che sia un po' uguale da sempre. Il pop ha sempre fatto da padrone, con qualche eccezione, come anche adesso accade, per carità. Quindi questo non credo, però sicuramente, come dicevi tu, alcuni cantanti, quindi sicuramente le timbriche, magari, ecco, sono un pochino più, viene da dire, appiattite, senza voler essere necessariamente un apocalittico da questo punto di vista. Le tecnologie sicuramente in qualche modo hanno appiattito, anche la richiesta di soddisfare l'algoritmo ha appiattito, quello sicuramente, per cui insomma sento di dire più che sul genere, su determinate caratteristiche tecniche che può avere il brano, o scelte, ecco, nello specifico. Ti faccio un'ultima domanda riguardo invece la, diciamo, proprietà, genitorialità di un pezzo, appunto, come si evolverà questa cosa con l'avvento delle tecnologie? Questa è una bellissima domanda alla quale forse non ti so rispondere, perché qui ci vorrebbe più un avvocato, ecco, insomma, qualcuno che sicuramente conosca meglio gli aspetti legali di quello che è la paternità, soprattutto intellettuale, di un'opera. Sicuramente l'elemento intelligenza artificiale e la possibilità di creare, come dire, delle opere sembrando anche qualcun altro o comunque assomigliando il più possibile a qualcos'altro, sicuramente sta un po' creando della confusione, ecco.